Anche io sono entrato poco, però vedo di fare qualcosa, dai. Ciao anche a Tonino, ciao a Gianni, ciao a tutti. Avanti Claudio. Ciao Matto Giù, ogni promessa è debito, tranquillo. La gente va come sta fa freddo e ne vuoi andare. Ci puoi stare in radio a fare due chiacchiere con quelle poche persone che siamo, ma ce la riusciamo a trascinare dentro qualche d'un altro. Ciao, buona serata, buon tutto. E ci sentiamo alle prossime, avanti Dore. Ciao Gianni, ciao Giulio e ciao risentirci a tutti quanti gli altri. Io lo stesso sto andando a prendermi le pastiglie, che se no da voi me ne dimentichi. Ci risentiamo alle prossime. Ciao Franco e ciao a tutti. Ciao Tore, squalo, alle prossime, buona serata e buon tutto. Avanti Claudio. Ciao di nuovo a tutti, a quelli che vanno via, buona serata e buon tutto. Alle prossime ci sentiamo, ok. Cosa stai usando fra? Sempre quell'antenna torica, sempre quella lì? Sempre quella, cioè diretta lì. Senza neanche guardato nulla, direttamente all'attacco dietro al PL. Ma non me ne segna stazionari, quindi vuol dire che già va sempre bene, dai. No, beh, 6, 7, 8. Abbondante, già va bene, io non so quanto è il mio segnale, sto andando con me. Una ventina di watt, sono trascinato. Una ventina di watt, il K. L'antenna è quella che hai visto una volta, sempre quella lì, sul lato, sull'angolo del muretto del giardino, ma sarà 3 metri da terra, 3-4 metri da terra, non di più. Perché non ha importanza per quell'antenna, capito, l'altezza, irradia anche da terra, il Martec, quello irradia anche da terra, quindi abbiamo base là, qui da casino, quando va bene così, perlomeno, in HF si difende molto bene. Vabbè, io uso di solito solo i dipoli, quella la uso 10 metri, però già si difende bene, dai, già va bene. Ok, per il resto tutto a posto, fra? Ehi, qua, già lo sai, no? Andiamo avanti. Ehi, lui, via nella barracca, non è che ci siano tante cose da fare, no? Bisogna vivere alla giornata. E tu bagettato, dice quello. E allora, invece il dipolo per la 27 non ne hai, no? No, c'ho il dipolo per i 6 metri, per i 50 mega, che ha le stesse lunghezze della 27, preciso identico. Lo uso in cose. Non c'è nessuno a 50, 110 e basta, sono tutti dipoli. Per il 28, per i 10 metri uso l'antenna verticale, capito? Che praticamente è un'antenna a larga banda, però fa anche, va bene anche per la 27. Aspetta che mi sta chiamando Anna, l'anonima. Ecco, come fa, scusa che... Ecco, no, andato, non vedo, senza occhiali non vedo più lo strumento, e questa è la linea del K con la T250. Non mi faccio mettere perché non ci vedo, un LED più bianco, ma non leggo bene il visore dello strumento, pensavo non stavo uscendo. Capito fra, così è. Un mare di cose da fare, credimi, non ha giugana, ma ha proprio zero. Sono anch'io messo un po' male, sto prendendo gli integratori per tirarmi un po' su, perché in questo periodo sono proprio fiacco, come si dice, stanco, debole, la dottoressa mi ha corretto, debole, non si dice fiacco, debole. Ehi, già avete l'idea, che devo fare, boh. Anch'io non è che sia proprio in piena forma, però cosa faccio? Utilizziamo i denti e andiamo avanti. Ci vorrebbe avere qualche integratore, non so, boh, ora ci può mancare qualche minerale, potassio e cose varie, boh. Quello che stava mancando a me. mancava vitamina B, soprattutto vitamina B, poi questi integratori che sto prendendo ci hanno molte vitamine, soprattutto ferro, potassio, magnesio, tutto il, sai, è il periodo, poi il cambio di stagione, no? Dall'estate piena e inizia ad arrivare l'autunno. Ma tutti gli anni mi fa così, anche quando ero nell'altra casa un po' meno, qua scendo in campagna me ne accorgo di più, perché magari prendo più umidità, eccetera, sono sempre full, capito, maniche corte, facendo, sfasciando più che aggiustando, perché io sono un pasticcione nato, quindi mi metto a fare, poi magari non vedo riesce a settare così, come mi sono messo a portare tutta la siepe che c'è dietro, no? Dalla vista quella c'è dietro il giardino, la giovane caduta a bomboglione, barica lei gioca. Ma invece io sono il contrario, quando dite una cosa la devo finire, se è possibile farla anche bene, dai. Sì, ma molte, proprio ti metti a fare, cioè io ci riesco, poi magari la fai così, però già mi accontento, non è che o ti metti a fare due rattoppetti, a fare due verniciature, due cose, quelle me le faccio. Mi sono messo a piantare due cosettine, cosa ha durato? Boh, una ghenda, c'è tutto ciccato, vai, non va male, c'è bravo, la zappa, ne ho tolto tutto. Capito? Quindi vedi, ti metti a fare, poi vabbè, l'erba, fuori la devi tagliare, se la devi tenere pulita. Giardino, già c'ho la serva, quello mi diverto, perché ti appoggi, ti fai una passeggiata così, ma dice spugliatore, sta iniziando a essere pesante, fra, capito? Confermo anch'io, un po' di fantasia è passata anche a me, prima ero più voglia di fare, più iniziativa, lì. Adesso anche cose che mi piacciono, tipo roba di meccanica, vado e la faccio fare, tipo cambiare pastiglie, roba così, prima questa roba che me la facevo io, adesso ne ho meno voglia. No, non ho voglia. Poi vabbè già, magari te l'ha detto Anna, Ilaria è andata via, ha voluto provare il brivio, quindi col mio aiuto ci ha preso un appartamentino lì a Sassari e quindi sta provando anche lì da giugno, che già è andata via di casa, già sta venendo spesso qua, pure collabora molto con la mamma eccetera, e quindi adesso siamo anche da soli, perciò capito anche quello, la sera mi viene un sonno, franco, io prima magari con Ilaria, sai, guardando la TV, due chiacchiere, magari riuscivamo fuori a fumarci una sigaretta, ma non annuda, ma della televisione, boh, mica la maieggio, mi sveglio, ma che ore sono? Le 11, no, io mi sono a letto, non me la fotti più nuda, perché siamo soli, siamo io e Anna e devo andare, non stiamo andando da nessuna parte, perché anche lei non è che è stata bene. Poi ti ripeto, un sacco di cosettine da sistemare, da fare, e siamo sempre richiusi a casa, fra. Certo che una vita assieme, adesso non so come l'abbia presa Anna, boh, il fatto che gli manchi un po' la figlia, sicuramente gli mancherà. Invece Ilaria come sta? Bene, tranquilla? Com'è questa avventura? Ah, fra, Ilaria le piace molto stare da sola, anche perché, sai, tu ci conosci bene, no? Quindi io sono molto oppressivo, dove sei, con chi sei, se per sei, come diceva l'amico, e quindi sai, a 38 anni non è che puoi far cassarli le balle più di tanto. E Anna non l'ha presa assolutamente bene, fra, so se te l'ha detto Anna tua, ma non l'ha presa bene, è stata un po' male. Adesso sono già un paio di mesi che insomma si sta abituando, non si è del tutto abituata, però si sta abituando, e anche io non è che l'abbia presa così, già usai dopo 38 anni, cioè tua figlia decide di provare l'avventura, provala, e lo vuoi ti dica, e chi aveva il cancello ce li ha, il letto suo c'è sempre qua, la stanza sua c'è sempre, tra l'altro si è portato via solo la roba estiva, adesso piano piano sta avvenendo e sta portando via anche quella invernale, perché non aveva portato via tutto, quindi siamo così, fra, a 50-50. E cosa vuoi fare? Anche lei è giusto che provi, che faccia le sue esperienze, insomma, l'età già c'è, quindi noi possiamo solo accompagnarli in questa avventura e basta. Ma ha voluto proprio staccare la spina da noi, capito? Perché c'è a casa di assai venuto, è grande, ce n'è di posto per potersi rendere indipendente, perché io, hai visto quella stanza che c'è, è abbastanza grande, per lei andava benissimo, avrei fatto un tramezzo e avrei fatto una cosettina intima per lei, ma proprio ha voluto staccare, non proprio allontanarsi del tutto, non perché sia io che Anna, soprattutto Anna più di me, è molto più attaccata a lei, quindi il telefono è qui e là, capito? Voleva staccare, tu, figlia mia, prova, se disgraziatamente non hai più gana di Maria Raggiura, la chiave del cancello, già ce li hai, cosa vuoi ti dica? Ecco, come fai che avevi fatto la stessa cosa, no? Anche lì deve spiegare le ali, deve camminare con le sue gambette così. Sicuramente aiuterà a crescere anche, no? a livello personale proprio. E soprattutto quello, ma tu Ilaria la conosci, insomma, una ragazza che è abbastanza di vita perché lavora, che era una ragazzina. Infatti quello che dice, io sono indipendente, nel senso lavoro, il mio stipendio, perché devo stare con voi a fare tante cose che posso fare tranquillamente da sola. E quindi l'ha voluto fare, per carità, non è che a 38 anni le dico cosa deve fare o cosa non deve fare. Sono delle scelte che noi abbiamo approvato, ma non è che abbiamo aderito molto a questa cosa, anche perché è sola, non è fidanzata, niente, quindi sai, è un altro tipo di vita, però ti ripeto, bisogna accettare le cose come stanno, va bene così, sono contento che sta bene, che vive tranquilla e serena, lavora, quindi tutto era se c'erano problemi, ma grazie a Dio problemi non ne ha, quindi facciamole fare quello che vuole. E allora, se lei è contenta, siamo contenti anche noi, come si dice. Cosa fa? Quando i nostri figli sono felici, di conseguenza siamo felici anche noi. Cioè non li possiamo tenere sempre sotto una campana di vetro, dai. No, assolutamente, ma infatti, quello che io dico Anna è quello lì. L'importante è che lei stia bene, sia felice di quello che fa, perché grazie a Dio è una ragazza che si dà da fare in tante cose, ha i suoi problemi anche di salute, lo sai, no? Quindi la mamma si preoccupa più di quello, perché sai, ti dimentichi mai di fare la medicina, ti dimentichi di fare una cosa, bisogna, quando uno ha una malattia che cura da tanto tempo, deve stare attento, e qua insomma c'era la mamma che la seguiva, e ha ragione, anche perché è molto smemorata da quando si è trasferita, bisogna l'orientamento, e poi stando sola dorme parecchio, dorme tantissimo, a volte la chiamiamo al telefono, non risponde, e fate mamma, dice, ma cosa è successo? Come sia successo? Non mi dè, poi ti manda male un messaggio, mi sono addormentata, capito? Mentre qui invece parlava spesso con la mamma e non si addormentava. Prima era abituata che magari a qualsiasi cosa la chiamavate voi, ma prendi questo, prendi quello, mi dice cosa fare. Adesso invece deve essere autonoma, quindi deve ricordarsi tutto lì. Si metterà la sveglia, come faccio io, mi metto la sveglia nel telefono e mi ricordo degli appuntamenti, di tutto quanto, dai. Sì, anche lei fa così. Molte volte la mamma gli ha detto, segnate le cose se non te le ricordi. Però ho visto che insomma già sta andando bene, già andando bene. Facciamole fare questa esperienza, se no è un casino. È un casino, noi perlomeno, io ho giocato in golpe fichi, come si dice, no? Io ho 25 anni, sono andato via, ma avevo già la casa pronta, avevo tutto pronto, e quindi niente, lei così all'improvviso, noi ce l'ha detto una settimana prima, 10 giorni prima, che aveva già la casa pronta e che a fine mese traslocava, gli ho detto, andiamo. Vuol dire che era decisa la ragazza, dai. Cosa fa? Ma quanto vuol dire che era decisa la ragazza, era proprio convinta, dai. Poi stai tranquillo, se non stanno bene già tornano a babbo, come si dice. Ah, quello già ci sono sempre, mi piace, c'ho due giorni la macchina sua, devo fare la revisione, gliel'ho presa e me la sono tenuta, poi due giorni fa direi sì, l'ho tutta la tona sistemata, una cosa perché non c'è tempo di nulla. Dentro sembra un accampamento di zingari, ce n'è poco di roba, ancora che la porta via da qui e se la mette in macchina, invece portarla a casa, se la tiene in macchina, c'è stivali, borse, cose, capito? Poi non c'è ascensore e quindi si porta sulla roba più leggera, quella pesante è già vero, va, buono. Ma le donne sono un po' così, anche Anna, mia sorella, Romatesi, mamma mia, la macchina sembra un campo atterraggio, buh. L'altro giorno, ieri glielo ho detto, perché ma tutta quella roba che è macchina, cosa devo fare? La devo scaricare? No, lasciala lì. Infatti ho aperto il cofano, c'è il frigo ancora del mare. C'era una busta dove c'erano patatine, roba di macchina, ma questa roba, ancora lì, portala a casa, già è roba buona, è stata tutta roba chiusa, sotto vuoto, l'ho portata a casa. Cioè si dimentica di tutto, capito? Si dimentica di tutto, fra. Controlla che sia qualche birretta fresca ancora. Ah, giù, che non te ne vaga a birra fresca, no? Già ci avvisi. Poi va bene, dai, che vuoi fare? E quindi, a che piano è, perché? Piano alto? Al quarto, Aia, ma me si tiene in linea, me. Ma infatti è da gente in linea che pesa 50 kg, ma io non mi tengo in linea, no, che non ce la faccio con i pesi a salire al quarto piano, ma te ne varia. Io mio cognato che è al quarto piano e ti dico quando salgo su, quando arrivo al terzo comincia a pagare a vedere come cassai. Forse lui è Giacomo Zanera, anche Giacomo. Ma le volevo mettere lo volevo dire, molto a carichi, ma non c'è spazio tra la scala e il muro, la scala è troppo attaccata al muro, capito? Se no avrei messo molto a carichi, giusto per portare su la spesa, l'acqua, infatti quando compri l'acqua, io la scendo qui dentro il cancello, entro dentro me la scarico. Lì se la porta bottiglia a bottiglia e se la tiene in macchina, infatti chissà, macchina non è più una macchina, ma è un motore di garraggio. Quarto piano è, insomma, è tosta, Mio cognato infatti si è ripetito, adesso sta già cambiando casa, quella la lascia alla figlia, quella lì, e lui ce la prende, anzi io credo che abbia già fatto tutto, abbia già trovato e penso ci sta da fare l'altro e basta. Da un'altra parte con l'ascensore, garage, dai, posto auto, eccetera. Ho capito. Ho visto anche a tua sorella l'altro giorno, c'è un mese fa, che Anna va a fare una visita molto importante e quindi l'ho accompagnata lì e ho visto a Rosa. Mi sa che me l'ha detto, non se l'aspettava, dice. No, io stavo ero in sala attesa riaspettando a lei che appunto uscisse ed è passata a Rosa, mi ha visto e mi ha salutato, mi ha detto tutto bene e gli ho detto appunto c'è un'amica tua dentro. È entrata, infatti gli ha dato, è rimasta lì per fare assieme ad Anna per fare questa visita, lo va a fare. Almeno c'era una faccia conosciuta, dai, sempre meglio quando fai queste cose qua, ti dà più tranquillità vedere una faccia conosciuta. E anche perché era una visita abbastanza dolorosa e quindi insomma gli ha dato un po' di supporto Rosa. È rimasta lì, vabbè, tutto qua, per il resto fra, tra giudizio. Si tira a campà, ecco perché sono sempre un po' impegnato a destra e a sinistra, anche lì a casa di Laria, che già sono andato a montare questa tenda, era già, c'erano dei tassili che lo reggevano, quindi ho dovuto cambiare, fare. Cose, sempre da fare c'è. Vabbè, dai, Franco lì, io ti lascio perché ci sono già le 8:10, mi guardo un TG e poi vado a vedere cosa bolle in pentola. Un abbraccio grande, salutami ad Anna. a Carletto e ci sentiamo alle prossime, dai. Già cerco di essere un po' più presente qua, se c'è qualcuno. Se non c'è qualcuno, a molti non vengo io, Sicuramente, dai, ricambio l'abbraccio anche a Anna e a Ilaria, fagli gli auguri da parte nostra. Come si dice, buona vita a tutti, alle prossime, buona cena, buona carica, buon tutto. Ciao, questo ha cambiato la parte nostra, dai, ci aggiorniamo, ciao, buona cena. Grazie, ciao.